Radio 24 ed Eni presentano Passione Africana, reportage a cura di Gigi Donelli e Roberto Antonini. Qui siamo in elicottero, abbiamo appena lasciato l'aeroporto di Port Harcourt. Port Harcourt nel sud della Nigeria, nel delta del fiume Niger, è di fatto la capitale delle attività estrattive di questa regione, regione che a sua volta è il cuore dell'attività petrolifera della Nigeria. Quasi 40 minuti di volo, da Port Harcourt alle raffinerie di Bonny, sulle sponde dell'Atlantico. Un viaggio tra la terra e il mare, seguendo una linea retta che intercetta una ragnatela di fiumi, di foreste e di mangrovie, di piccoli villaggi di pescatori e poi ancora di piantagioni di olio di palma, quelle che sono state la ricchezza della regione quando ancora era la British Nigeria. Qui siamo nel delta del grande fiume Niger e questa terra, due volte la superficie della Lombardia, è soprattutto il grande controverso tesoro della Nigeria. I pozzi di petrolio raccontano oltre mezzo secolo di attività estrattiva, che è molto più intensa delle torce di flaring che bruciano a vista il gas sotterraneo. Il delta è un intricato sistema di paludi e coltivazione, ma è anche la casa di quasi 15 milioni di nigeriani, segnati in un modo o nell'altro da questa industria. Oggi è il forziere che custodisce il 95% delle esportazioni del più popolato paese africano. Nella top 5 dell'approvvigionamento degli Stati Uniti, la Nigeria è davanti all'Arabia Saudita e ha un posto chiave anche per l'Europa e per l'Italia, come ci racconta il responsabile per l'Africa subsahariana dell'ENI, Roberto Casula. Per dare qualche numero, la produzione olio e gas che proviene dalla regione vale attualmente circa 420.000 barili di olio equivalente al giorno, che vuol dire il 22% circa dell'intera produzione giornaliera di Eni, mentre in termini di investimenti quest'anno prevediamo 3,6 miliardi di dollari che rappresentano il 30% del budget per attività di esplorazione, sviluppo e produzione nel mondo. In questo scenario la Nigeria naturalmente è protagonista. Il peso della Nigeria è certamente rilevante. Nell'intera regione subsahariana noi abbiamo circa 2.200 dipendenti, ecco, in Nigeria contiamo 1.500 e sono ovviamente per la gran parte nigeriani. In termini di produzione operata è sicuramente il paese più importante e in termini di attività consideri che oltre all'olio abbiamo delle importantissime attività sul gas, non solo in termini di esportazione con i sei treni della Nigeria LNG, ma anche come valorizzazione del gas domestico e in particolare la produzione di energia elettrica. Il personale della compagnia italiana che mi accompagna in questa tappa tra grandi impianti, piattaforme e città che ruotano intorno alle attività estrattive si muove all'interno di un rigido protocollo di sicurezza. Gli attentati contro la rete degli oleodotti, i danneggiamenti alle stazioni di pompaggio, gli scontri a fuoco, ma anche gli assalti alle piattaforme offshore e i rapimenti del personale straniero fanno parte di un conflitto che negli anni 90 ha visto la giunta militare di Abuja reagire alle richieste locali con le armi e la violenza. Al culmine della repressione, e prima di morire con 4 miliardi di dollari rubati nelle casse dello Stato in tasca, il generale Sani Abacha aveva fatto arrestare e impiccare Ken Saro-Wiwa, poeta e drammaturgo diventato portavoce delle rivendicazioni pacifiche degli oltre 100 villaggi della piccola etnia Ogoni. Con il ritorno della democrazia, il governo centrale di questo enorme Stato federale di 36 stati si è impegnato a cambiare rotta. Il presidente Goodwill Jonathan, un uomo del Delta, ha imboccato la via della trattativa, concedendo l'amnistia ai gruppi armati. In cambio ha chiesto disarmo e dialogo e ora promette una reale distribuzione dei proventi dell'oro nero. A un paio di chilometri dal corso del Niger, l'elicottero scende accanto a un grande impianto industriale che cresce solitario nella foresta. Sì, siamo in mezzo alla giungla, e il sito si chiama Okpai, una località piuttosto lontana da tutto. nonostante diciamo ci sono le comunità tutti intorno allo stabilimento che conviviamo tranquillamente con tutti loro. Ecco, perché Occupy è così importante in questo territorio? Nel sito di Occupy è installata questa power plant, questa IPP, il quale sfrutta un gas di flaring, un gas di torcia, cioè un gas che diversamente, diciamo, al posto di andare in atmosfera viene convogliato, diciamo, attraverso delle pipeline in questo sito e quindi viene generata energia elettrica. Non viene utilizzato nient'altro, utilizziamo questo gas naturalmente in un ciclo combinato ed ecco che si raggiungono i 480 MW di capacità di questo impianto. Antonino Fiore mi accompagna attraverso questa centrale che sembra un fortino tropicale. 480 megawatt nominali sono tra il 15 e il 20% della produzione elettrica della Nigeria. A un paese che, nonostante le sue enormi risorse, lascia ogni giorno milioni di cittadini al buio, il governo di Abuja promette una grande campagna di investimenti per sostenere infine l'elettrificazione. Le ricadute sarebbero imponenti per tutto il sistema economico e sociale del paese. Di certo, se l'industria energetica nigeriana convogliasse il gas associato alla produzione dell'olio per alimentare la produzione elettrica, ci sarebbe meno inquinamento, più elettricità e persino più affari per tutti. La nuova amministrazione, a un anno dalle elezioni presidenziali, promette una svolta, si impegna su un'agenda da far tremare i polsi. Ad Abuja, per chi è qui per rappresentare una grande compagnia, l'ottimismo è quasi d'obbligo. Ciro Pagano è responsabile per la Nigeria della multinazionale italiana. Ma sicuramente, io posso dire che l'agenda è molto forte, molto importante. Si parlava dell'elettrificazione, si parlava della risoluzione dei problemi del Delta, si parla della riforma elettorale sicuramente. Noi supportiamo questa agenda, fare delle attività che possano migliorare il sistema paese sicuramente ci vede favorevoli. Sa che nell'ottobre scorso è stata dichiarata un'amnistia e questa amnistia è stata almeno finora un'operazione di successo, cioè, infatti la crescita che c'è stata dai livelli di produzione che si erano relativamente abbassati, crescita che c'è stata è anche dovuto a questo elemento stabilizzante. Se queste intenzioni dichiarate del governo andranno effettivamente nella direzione di pacificare ulteriormente il Delta, e pacificare che cosa significa? Significa creare posti di lavoro sicuramente, creare opportunità per la gente del Delta, distribuire o ridistribuire. In maniera magari più equa le risorse. Se tutti questi elementi verranno affrontati come è nelle intenzioni, io sono convinto che la Nigeria porrà le basi per una crescita e uno sviluppo ulteriori che la porranno sicuramente tra i paesi a più alto tasso di sviluppo. Si cambia scena dal Delta all'altopiano centrale di Jos, dal petrolio al conflitto etnico e religioso. Non è mai facile leggere i segnali della paura, tantomeno in una città dove arrivi per la prima volta e ti ritrovi subito immerso nel traffico, nei suoni e nei colori dell'Africa. Il via vai, dopo tutto, è quello consueto. Gli Okada, come chiamano qui in Nigeria i taxi su due ruote, sono anche qui i protagonisti del traffico. Attraversando la città, Jos appare immersa nella normalità un po' caotica di tutta quest'Africa occidentale. Nei mercati la gente è al lavoro, qui soprattutto nel trasporto e nella vendita del legname, ma c'è anche la consueta batteria di venditori che su vecchie carriole portano da una parte all'altra decine di taniche gialle piene d'acqua. Appare tutto tranquillo e si trova anche chi ha voglia di uno scambio di battute sull'imminente mondiale, dove la nazionale dei Super Eagles si prepara alla sfida contro l'Argentina, la Grecia e la Corea. E se c'è almeno una cosa su cui tutti i nigeriani sono d'accordo, è che la loro nazionale sia la più forte, almeno dicono la più forte del continente africano.